noi diamo un sacco di incentivi. Lo strumento del patto territoriale, devo dire, io per essere onesti, come mi sente, so, credo che sia giusto e doveroso fare autocritica, però me lo ritrovai. Era uno strumento, sì, si alleavano i sindaci, si discuteva con il partenariato, che è fondamentale, con l'organizzazione della cittadinanza attiva, che è decisiva, perché è lì che c'è la conoscenza. Noi da Roma non lo sappiamo cosa fare qui e là, però l'obiettivo principale di questi patti, di questi accordi, non fu quello di migliorare la qualità dei servizi collettivi per tutti, quindi collettivi, ma fu quello di dare incentivi alle imprese che aggettavano di giocare la partita. E poiché noi non riuscivamo ad allocare questi incentivi, non si riesce mai ad allocare gli incentivi pubblici, a meno di quelli alla ricerca e all'innovazione, dove si giudica se c'è veramente ricerca e innovazione, anche quelli sono difficili, ma van fatti. Ma non si riesce mai a capire se lo dai all'impresa giusta o alla sbagliata. E molto spesso cosa fai? Attrai le imprese sbagliate. Quindi noi all'inizio il territorio si agitò, in alcuni pezzi del territorio, alcuni patti hanno prodotto risultati molto importanti in Sicilia, in Calabria, in Abruzzo, in Puglia, in Campania, ma poi alla fine l'incentivo dominò, era il 70-80%, non ricordo più ancora, dei fondi che mettevamo, e quindi attraemmo i peggiori. I pattifici nacquero cioè delle consulenze esterne, internazionali, locali, che insegnavano alle aziende come chiedere i soldini, e attraemmo i peggiori, e i migliori dissero: ragazzi, non fa per noi, neanche questa volta. E questo messaggio girò e la stagione si esaurì. Noi oggi, la novità di oggi è che noi di incentivi generalisti non ne mettiamo uno.